Il Don Giovanni è un individuo che non ha raggiunto una maturità personale, emotiva e psicologica. Infatti quasi sempre è un insicuro, che trova la sua identità e stima di sé solo attraverso le conferme che gli vengono fornite dal successo della conquista. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e quasi 7 minuti di un giovedì qualunque di fine maggio, per l'esattezza 19, direi metà maggio, 19 maggio 2011. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Fino da bambini, fin da quando cominciamo le scuole elementari e poi sempre più su, fino alle medie e le superiori, fin da quel momento tutti i maschi hanno un sogno. È un sogno che rende frizzanti i loro giorni e che tormenta le loro notti. Qualcosa che tutti conoscono ma di cui nessuno parla. Sto parlando dell'amore segreto per la propria professoressa. È una di quelle pulsioni buone che rendono la giornata un po' meno dura e lo studio un po' più proficuo di solito. Sono amori innocui che non fanno male a nessuno e che nessuno mai realizza. In realtà nei corridoi delle scuole superiori e dei licei di mezza Italia gira qualche leggenda secondo cui alcuni fortunati alunni che magari dimostrano più anni di quelli che hanno quel sogno lì lo hanno realizzato. Poi con gli anni le cose si invertono. Negli anni dell'università sono le studentesse a subire il fascino dei professori. Poi, da lì, pochissime storie si concretizzano, ancora meno hanno un futuro. Solo alcune diventano una vera e propria storia d'amore, coronata dalle nozze, magari, dai figli, da una famiglia. Ma anche solo nei vari corsi, no? Sportivi, musicali, nella scuola di vela che frequento da anni, ad esempio. Io sono stato testimone di storie d'amore nate, cresciute e poi compiute tra istruttore e allieve o tra istruttrici e allievi. Ecco, la puntata di oggi è dedicata a quelle storie, alle storie oltre la cattedra. Le relazioni nate con quello spazio in mezzo che sembrava invalicabile tra maestri e allievi. Come sono nate, come stanno andando e se già lo sapete o se lo immaginate, come finiranno. Che siate stati il professore, l'istruttore, la maestra, oppure lo scolaro, l'allievo o l'universitaria, oggi io sono qui. Forse mia cara maestra non ha capito, è amore mio, infinito. E qui anche quel pazzo di Bugo, per chi non lo conoscesse, il Beck italiano, così viene definito, che era mio compagno di scuola. Non di classe, di scuola, perché lui è di Cerano, e invece compagno di classe era sua sorella, la Buga. Ma questa è un'altra storia. 80024 0024 349 238 6666. Si parla esattamente di quella cosa lì, senza scandali, senza volgarità. Si parla delle storie che nascono nei banchi di scuola, nelle aule universitarie, però non tra compagni. Tra, direi, maestro, tra insegnante, tra istruttore e l'allievo che sta dall'altra parte. Vi faccio un esempio, l'esempio di Irene che sul profilo Facebook Matteo Caccia io sono qui, mi ha scritto: avevo 22 anni, ho conosciuto il professore di musica jazz in conservatorio. L'incontro è stato fulminante e tra melodie, accordi e opinioni comuni, dopo 4 mesi siamo diventati marito e moglie. Il connubio è durato 10 anni e abbiamo avuto 2 figli. Ora non siamo più insieme, ma siamo comunque in ottimi rapporti. Esattamente così. 80024 0024 oppure 349 238 6666. Ve ne faccio un altro di esempio. È una persona che mi ha scritto, vi ripeto, c'è un profilo Facebook che è aperto a tutti. Lo dico per chi continua a chiedermi l'amicizia. Sapete come funziona Facebook? Non la posso accettare perché ho semplicemente raggiunto una quota oltre al quale Facebook non fa accettare più amicizie. Ma c'è un profilo che è una fanpage e vale lo stesso. È stato trasferito lì. Si chiama Matteo Caccia, io sono qui. Questa ragazza, di cui non faccio il nome perché vuole rimanere anonima, mi ha scritto questo messaggio. All'ultimo anno di liceo ho fatto un corso di giurisprudenza. Il mio professore era un neolaureato in legge, era bello e brillante e mi sono innamorata subito. Quando mancava un mese alla fine dell'anno scolastico abbiamo iniziato a frequentarci, molto in segreto, ma quello rendeva la storia solo più affascinante. E infatti è finita la scuola, è finita anche quella magia. PS, per il corso ho preso un ottimo voto perché per paura di fare una brutta figura davanti a lui ho studiato come non mai. Ce n'era un altro, Beatrice, che invece è una professoressa, che dice: non mi si è mai cagato nessuno. Però Beatrice, c'era questa amarezza. Il messaggio era poche parole ma molto chiare, c'era tutta l'amarezza di una donna che evidentemente nemmeno il ruolo è riuscita ad aiutare. Ma Beatrice, esistono dei centri che aiutano le persone. Filippo, un mio professore delle superiori, è attualmente sposato con una sua ex alunna. Storia nata, ho reso ufficiale dopo che lei si è diplomata. Sì, però non valgono il ho un amico che sa che suo cugino si è fidanzato. No, direi persone che si sono sposate, che hanno avuto figli o che stanno insieme o che quantomeno ci sono state loro direttamente, perché il sentito dire non vale, almeno non in questi casi. 349-238-6666, un'altra piccola comunicazione di servizio. Continuate a chiedermi se finito il Salone del Libro vale ancora mandare i racconti. Vale e come? Il Salone del Libro di settimana scorsa è stata semplicemente una tappa della raccolta di quel materiale. Quindi il racconto che vi racconta, quella pagina di racconto in cui raccontate un episodio della vostra vita che meglio dice qualcosa di voi in questo momento o del passato della vostra vita, continuate a scriverlo e continuate a mandarlo a io sono qui @radio24.it. Fa parte di un progetto molto più grande, non so di cosa, molto più grande di quello che pure io e Bonini potevamo immaginare. Viola no, Viola ce l'aveva già in testa, però fa parte di un progetto che prenderà corpo e piede e anima più in là, più in là nel tempo. Io sono qui @radio24.it, invece per chiamare in diretta è 80024 0024. Come al solito vi racconto e vi chiedo di partecipare con una vostra storia, perché parto sempre dalla mia, e la mia storia a proposito di incontri con ex professori e professoresse è questa qui. Dunque, ieri sera sono andato al cinema a vedere un film che si chiama Limitless, perché mi sembrava un bel film e perché in generale mi sembrava una buona idea, e in più mi piace a Milano fare delle cose che se fossi in paese non potrei fare. Mi ricordo ad esempio che il silenzio notturno e il suono delle rondine è impagabile tanto quanto l'aria profumata, ma che dove ci sono le rondine ad esempio ci sono anche le zanzare di solito, e invece mancano le occasioni culturali, insomma mancano i cinema, i concerti, i teatri, insomma è la differenza tra la campagna e la città. Una cosa che mi fa innervosire però del cinema è che non puoi più prendere il biglietto e sederti, cioè non puoi pigliarlo alla cassa ed entrare in sala, devi prenotarlo, oppure in ogni caso devi metterti dove l'assegnazione automatica del posto ti indicherà. Insomma, non esiste più la libertà di andare e scegliersi il posto migliore, devi sperare che il caso ti sia stato benevolo. Comunque, ero in coda che mi cervellavo su questi temi fondamentali della vita ed ero felice di essere da solo per non poter così ammorbare nessuno, quando davanti a me vedo Erika. Dunque, Erika, quando l'ho conosciuta ai tempi dell'università, non la chiamavo così. La chiamavo la professoressa Brunati. Era solo una dottoranda che faceva l'assistente del professore con cui mi stavo laureando. Era lei a seguirmi, ed era stata lei ad accorgersi che avevo copiato. Erika Brunati era stata gentile e mi aveva mandato una mail che suonava più o meno così: caro Caccia, ho ricevuto la prima parte della sua tesi di laurea, la parte più compilativa e quella più noiosa da scrivere. Tuttavia, siccome sappiamo tutti che è scritta troppo bene perché sia farina del suo sacco, visto che lei si sta concentrando sulla parte sperimentale, io ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che quel testo l'ha scritto qualcun altro. Ora, pur essendo dispiaciuta per il tempo che lei ha perso per copiarla e soprattutto per quello perso da me a leggerla, le concederò di ripresentarmi il pezzo, stavolta cercando di scriverlo lei con le sue mani. Buon lavoro, Erika Brunati. Io ovviamente lo sapevo che avevo fatto una boiata, ma non pensavo che controllassero, e inoltre era vero che la parte importante della tesi era quella sperimentale e non quella compilativa. Comunque, anche se era stata molto gentile, io mi ritirai con stile e non andai più nemmeno al ricevimento. Chiesi la tesi con un altro professore e non mi sono mai più sognato di copiare. Dopo anni però, ieri sera eravamo in fila per lo stesso spettacolo e io ero in un grande imbarazzo. Come avrebbe reagito se l'avessi salutata? In più c'era il fatto che ora aveva degli splendidi capelli rossi. Sì, Erika era diventata decisamente una bella donna e io non ero più un suo studente. Lei stava andando al cinema con un'amica, che di solito è la pratica delle donne che sono da sole, che sono single. Però però può anche semplicemente celare un fidanzamento felice che consente uscite con le amiche. Non sapevo esattamente cosa pensare, ma è innegabile che ne fossi attratto. E allora mi sono ricordato di una cosa che qualche anno fa mi aveva fatto leggere un'amica che fa la psicologa per spiegarmi alcune difficoltà che gli uomini hanno con le donne. Era un pezzo di un libro che diceva più o meno così: la sindrome di Don Giovanni è il desiderio di sedurre donne in una incessante serie di relazioni passeggere superficiali. Per la maggior parte degli uomini il don giovannismo è una fase temporanea che si dilegua non appena trovano la donna giusta. Per alcuni invece diventa uno stile di vita e può rappresentare una difesa contro la vulnerabilità e la debolezza. In pratica, l'affetto da don giovannismo non si innamora mai, semplicemente seduce le donne e poi le abbandona. Il don Giovanni non si apre, sia per timore di ferire che per desiderio di sbarazzarsi presto della donna che seduce. Una lunga serie di avventure amorose gli conferisce sicurezza e allontana eventuali paure di rimanere da solo o di essere abbandonato, perché se egli perde una donna, può essere sostituita. Si tratta di un individuo che conosce l'arte della seduzione, ma che non ha raggiunto una maturità personale, emotiva e psicologica. Infatti quasi sempre un insicuro, che trova la sua identità e stima solo attraverso le conferme che gli vengono fornite dal successo della conquista. Ecco, quell'amica mi lesse questa cosa perché probabilmente era una cosa che mi descriveva diversi anni fa. Ora le cose fortunatamente sono cambiate. Vivo più o meno con le stesse emozioni, ma non combino mai niente. Che va bene, eh? Sono un ragazzo felice e sto con la compagna con cui voglio stare. Però va a finire che spesso provo mille sensi di colpa senza neppure aver chiesto a nessuno il numero di telefono. Sì, il Don Giovanni immaginario è una fregatura. Ha il peggio del malato e il peggio dello sfigato. Ieri, durante tutto il film, mi sono sentito uno schifo di uomo e un traditore senza nemmeno aver rivolto la parola alla professoressa Brunati. E poi il film è finito. Erika Brunati non era solo con un'amica, era con un gruppetto di persone che aveva incontrato in sala. Il destino ci ha messi seduti distanti, ma alla fine proiezione ho ceduto alla tentazione e sono andato a chiederle se si ricordava di me e se a distanza di anni mi poteva scusare soprattutto. Lei ha sorriso molto gentilmente e mi ha detto di sì, che si ricordava di me e che avevo solo fatto un errore, non avevo mica ucciso nessuno. Poi mi ha presentato ai suoi amici, che mi sono sembrati simpatici, e insieme abbiamo commentato un po' il film, uscendo. Più che altro erano interessati al fatto che io fossi al cinema da solo. Io non ho menzionato Tbilisi, ma mi sono limitato a dire che sono fatto così e per me guardare un film è un po' come leggere un libro. Lo faccio da solo. Stavo per andare a casa a guardare la mail, ma uno di quegli amici, a cui sembravo stare abbastanza simpatico, mi ha chiesto se volevo andare con loro a bere una birra. Io ho guardato Erika e lei, mentre sorrideva, ha abbassato gli occhi. E allora ho detto di sì, volentieri. Io non avevo alcuna intenzione verso di lei, ero solo curioso di conoscere gente nuova. E poi lei è la prof che mi ha beccato mentre copiavo. E tra l'altro non è esattamente una ragazzina. Comunque sia, ero molto sereno mentre chiacchieravo con lei e i suoi amici di vacanze in America, di prezzi dei voli low cost. Insomma, sono più grandi di me, però non sono dei vecchi. Sono un gruppo, ma non se ne fanno troppo forti. Sono gente intelligente, ma non sono antipatici. Sono chiaramente benestanti, ma non vanno nei sushi bar dopo il cinema. Insomma, mi ha sorpreso in positivo quel gruppo di amici. E anche la professoressa Brunati. Soprattutto quando alla fine della serata mi ha salutato e mi ha dato il suo biglietto da visita, con il suo indirizzo email e il cellulare. E io non ce l'ho il biglietto da visita. E allora, mentre la guardavo e mi chiedevo se ci sono delle medicine per chi soffre di don giovannismo immaginario ovviamente, le ho fatto uno scrivo col cellulare e le ho detto: ecco, quello lì è il mio numero, se ti va puoi memorizzarlo. Forse mia cara maestra non ha capito, è amore. Infinito. che a me piacerebbe mandarlo di più questo pezzo, però mandiamo solo questo piccolo estratto. È una canzone di Bugo, per chiunque non lo conoscesse andate a cercarlo, che si chiama Amore mio infinito, che parla proprio dell'amore di questo bambino per la propria maestra, che rende le giornate un pochettino più sorridenti. Un episodio molto divertente che riguarda Bugo e sua sorella, la Buga, che era in classe con me, è che la Buga aveva scritto sullo zainetto dell'Invicta, ma guardate, credo che lei, insomma, se ascolta non si vergognerà, viva i militari. Grande Buga. 800240024 349 238 6666. Se siete dei professori, degli ex professori, degli insegnanti o ex insegnanti che si sono, hanno avuto una storia, si sono sposati, hanno fatto dei figli magari con i propri allievi o viceversa, se siete allievi e l'avete fatto con i vostri insegnanti, 800240024. La mia compagna di classe di liceo, fidanzata con la loro professore d'italiano durante l'ultimo anno. Sì, abbiamo detto che non valgono però i cugini o gli amici, valgono solo noi stessi. Addirittura c'è un messaggio di due insegnanti di catechismo che non valgono perché non sono insegnante e allievo, però divertenti. Lei 15 anni più giovane di lui, 15 anni più giovane di lei. Ovviamente lei serissima e religiosa, vergine ancora oltre i 30, questo come possiamo saperlo? Non lo so. Insegnante severissima alle superiori, giravano delle storie tra i ragazzi più grandi. Alla fine c'era un fondo di verità, anzi con grande scandalo si sono sposati. L'età troppo avanzata non gli ha permesso di avere dei figli. Anonimo dalla provincia di Mantova. E poi oggi sul profilo Facebook mi è arrivato questo messaggio di Lorenzo, che ammette apertamente, con serenità anche: qualche mese fa, prima di finire il dottorato in Inghilterra, ho avuto una storiella molto breve con una mia studentessa, tra l'altro adescata con una scusa becera. Pronto Lorenzo? Pronto, ciao Matteo. Ciao, innanzitutto grazie per essere qui, e la prima domanda è: qual è la scusa becera? Allora, tutto quanto era partito un po' da una sfida con la mia coinquilina, che mi ha detto: beh, sei stato tre anni in Inghilterra e non ci sei neanche fatto una studentessa, non puoi andare via. Che roba brutta, scusami, che roba brutta, ma era la tua coinquilina inglese? No, italiana anche lei. Però stavate dove? In Inghilterra, a Brighton. No, a Brighton, ma a Brighton si va in vacanza. Mi ricordo, sono andato con la F a fare con i ragazzi dopo alle superiori. E cosa insegni tu? Che cosa ricerchi, Lorenzo? Chimica. Chimica, benissimo. Quindi allora, edulcorando il tutto, non hai ancora avuto una storia con una ragazza qui a Brighton. E tu, giustamente... No, con una studentessa. Benissimo, che cercavo di... Benissimo, quindi parte, che cos'è, una scommessa? Così, però che ho fatto un attimo mente locale, ho detto: beh, effettivamente c'è una del primo anno carina, vediamo se in queste tre settimane rimanenti d'Inghilterra riesco a fare qualcosa, per cui dovevo essere abbastanza veloce. E l'unica cosa che mi è venuta in mente in quel momento è stata di mandarle una mail dicendo, inventandomi assolutamente, che avevo trovato un astuccio sotto il suo armadietto, perché ognuno in laboratorio ha un armadietto. Sto già tremando, vai avanti, ti prego. Perché il mio ragionamento era: beh, se mi dice no, dico vabbè, amen, finisce lì. Però se mi dice sì, è mio, ovviamente c'è qualcosa sotto, perché io di astucci non ne ho trovato. Non ne avevi, certo, giustamente. Sembri Sherlock Holmes quasi, Lorenzo, a questo punto. E lei ha detto di sì, immagino. Certo, l'ho dimenticato. Esatto. Ok, non vi siete fidanzati? No, è durata una sera. Benissimo, Lorenzo, ecco, è con una profonda mestizia che siamo per chiudere questa telefonata. Cosa fai adesso nella vita, Lorenzo? Sto cercando un lavoro. Un lavoro? In che cosa? Chimica? Sì, sempre più o meno nell'ambito. Perché non sei rimasto in Inghilterra? Perché la gente è un po' triste, il tempo è brutto e si sta meglio qua. Benissimo, però le studentesse lasciano astucci sotto le cattedre dei professori, quantomeno. O almeno, tra l'altro, piccolo inciso. Poi mi ha chiesto com'era l'astuccio. Anche io ho glissato un attimo. Beh, ne sei uscito a testa alta, Lorenzo, mi piace. È la tipica figura del maschio italiano all'estero, che ne esce distrutta, fatta a pezzo. Un brutto momento di radiofonia, oserei dire. Lorenzo, senti, quanti anni hai? 26. 26. Che cosa vorresti fare esattamente nella vita, oltre al chimico? Ma è quello che sto cercando un po' di capire in questi giorni, sinceramente. Va bene, Lorenzo, ti faccio un sacco di in bocca al lupo. Crazy. Buona giornata, ciao, grazie. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in un parcheggio, direi. Dal fatto che le piante sono verdi, è stata scattata in primavera, quindi potrebbe essere di questi giorni. Però veramente non si capisce dove siamo. Ci sono macchine parcheggiate e un edificio che forse è una fabbrica. Però è qualcosa nel nord-est, così a naso è da queste parti. C'è un cancello in ferro chiuso con una bella catena e se si osserva sulla strada, visto che il sole è basso perché probabilmente è sera, sono le 7, le 8 di sera, si intravede l'ombra della persona che sta fotografando. Carla Pavone, 45 anni. Sono seduta su un gradino di cemento all'ingresso della piscina comunale di Carugate ad aspettare mio figlio di 13 anni che frequenta un corso di nuoto. In inverno mi siedo all'interno a leggere, ma oggi è un caldo pomeriggio di primavera e mi piace crogiolarmi al sole mentre scrivo. Io sono qui. Carla, è una descrizione magnifica ed era piena di poesia fino a che sei arrivata alla piscina comunale di Carugate, perché uno diceva sono qui seduta al limitare della sera in mezzo alle piante, e poi devo dire che la piscina comunale di Carugate c'ha questi tubi probabilmente per lo smaltimento dei vapori che non lasciano molto a romanticismo. Però grazie, io sono qui, @radio24.it per mandare le vostre fotografie. C'è ancora tempo, quanto? Un mesetto e mezzo direi, e anche Matteo Cacci sono qui, potete caricare direttamente. A proposito del mesetto e mezzo che manca prima che tutto questo finisca, c'è in ballo l'organizzazione di una sorta di serata finale per il programma che dovrebbe avvenire verso la metà di giugno. Non sappiamo ancora niente di preciso, ma cominciate a prepararvi se avete voglia di venirci. Dovrebbe avvenire da queste parti, dovrebbe essere una non so niente di sicuro, quindi do dati a caso proprio, però è una serata in cui diciamo si tirano le fila di questa stagione di programma che dovrebbe accadere da queste parti, comunque entro la fine del mese di giugno. 800240024 349 238 6666. Andiamo subito a Mantova da Giuseppe. Pronto Giuseppe? Ciao Roberto. Sono Matteo. Ah scusa Matteo. Hai sbagliato numero, no, Giuseppe, volevi parlare no, con... No, è nell'attesa allora. Come nell'attesa? No, siccome c'è una centrale di lista non messa in attesa, quindi... E ma che c'entra Roberto però Giuseppe? No, ascolta, no, ti volevo salutare, volevo fare una bella figura, mi sono dimenticato il tuo nome. Ok, va benissimo. Guarda, di solito il nome passepartout è Marco per me, quindi... No, ma volevo intervenire nella tua trasmissione perché ti stavo ascoltando e allora... Bravo. E tu hai avuto una storia con una professoressa durante l'esame di maturità? Durante l'ultimo anno, sì. Sì, certo, scusami, durante l'esame sarebbe stato un po' eccessivo, però durante l'ultimo anno. E quanti anni avevate di differenza? Beh, io mi ricordo che avevo 18-19 anni, lei adesso non lo so quanto, 35, 30, insomma. E scusa, come è accaduto esattamente Giuseppe? Ma guarda, c'era una festicciola tra amici, non mi ricordo per quale ricorrenza, in classe, allora... mi ricordo che questa professoressa, mi ricordo che gli dissi dammi un bacio, questo qua mi guardò così un po' e poi mi baciò. Ma Giuseppe... Ma è una roba da ragazzini, perché poi effettivamente non è che sia stata una storia d'amore. Vabbè, lo immagino, cioè avevi 17 anni. Lei cosa insegnava? Ascolta, per questione di frase non ti dico che cosa insegnava. Comunque era una materia che si faceva al biennio, quindi non era una mia prof, era però una prof. Era una prof della scuola, va bene. Non vuoi dirci neanche il nome, ovviamente, per motivi di privacy, okay. Direi di sì. Giuseppe, grazie mille, buona giornata. Scusami, ciao. Perché poi ho saputo che insomma è ammalata, quindi... Vabbè, insomma, Giuseppe, se vuoi dirci altro anche... Grazie, buona giornata, ciao Giuseppe. Andiamo, giusto per motivi di privacy, no? Andiamo a Bologna, da Paolo. Pronto Paolo? Pronto? Ciao, sono Matteo e non Roberto. Io sono Paolo. Però devi abbassare la radio o spegnerla, sì. Paolo? Appena un po' abbasso, ascolta. Dimmi. Volevo raccontare che io lavoro in una scuola per l'agricoltura e l'ambiente. Sì. Da 81, sono 30 anni. Sì. E ho iniziato, appena diplomato, sono rimasto all'interno della scuola come assistente. Sì. E ho cominciato a frequentare una studentessa, io avevo 20 anni. Sì. Lei 17, faceva ancora la quarta, e dopo 5 anni ci siamo sposati. Sono 26 anni che siamo sposati, abbiamo una figlia di 25. Come si chiama Paolo la figlia? La figlia si chiama Valentina. Valentina, abbraccia Valentina e tua moglie. Grazie Paolo, buona giornata. Abbiamo una nipotina che si chiama Martina. Avete già anche la nipotina, magnifico. Tutto bene. Ciao. Grazie. Ciao Matteo. Grazie, ciao, grazie. Complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Oggi è ruota libera proprio, non c'è nessuno che si fermi. Andiamo Matteo da Treviso. Pronto Matteo? Sì, ciao Matteo, sono Matteo. Ciao, magnifico, questa gag da quanto volevi farla? Dimmelo da un paio di minuti. Guarda, probabilmente erano 10 minuti che me la immaginavo. Benissimo, quantomeno non hai detto Roberto. Senti, esatto. la tua è una cosa molto più blanda, mi sembra di capire. Si tratta di... classica scottarella, diciamo così. Scottarella si dice a Treviso? Sì, no, si dice anche cottarella. Ah, ok, ok. Senti, si parla però di un insegnante di nuoto in questo caso. Sì, niente, noi vedevamo lei che aveva questo fisico statuario, occhi di ghiaccio, cioè 28enne, noi 15enni, donna tutta d'un pezzo, diciamo così. Niente, che poteva dirci qualsiasi cosa, noi subivamo in silenzio. Matteo, e guardavamo cosa... ammagliati. Cosa fai adesso nella vita? Sono architetto, lavoro in uno studio di architettura qua a Treviso. E quanti anni hai? Adesso ne ho 28. Ne hai 28? Ce l'hai una fidanzata, Matteo? Sì, sì, sì, la ragazza ce l'ho da un po', fra un po' andiamo a convivere. Bravo, quando? Spero presto, i lavori procedono. Ah, proprio casa insieme? Sì, casa insieme, sto seguendo io il progetto. Beh, certo, quindi... vorrei vedere. Matteo, grazie, devo chiudere perché altrimenti mi tagliano la testa. Buona giornata! Ciao, grazie. Ciao, grazie. Basta, non possiamo più prendere telefonate, però vorrei finire oggi con un racconto che fa parte della categoria racconto che vi racconto, però è un po' diverso dagli altri e probabilmente capirete il perché ascoltandolo. Oggi è una doppia ricorrenza, il compleanno di una mia cara amica e il tuo. All'amica ho già fatto gli auguri poco fa, passeggiando in un giardino che è un tripudio di rose e di ulivi. La giornata è chiara, senza vento. La tonnara si poggia sopra il mare come una barca ferma. Tutto attorno a me ha una bellezza che mi sorprende. Un po' come il regalo che mi piacerebbe offrirti. Tra di noi si è posato il silenzio. Ora la verità galleggia e luccica. E non posso fare a meno di guardarla. E dentro ci sei tu e ci sono io. E quello che siamo stati. Per anni. Per tanti anni. E ci sei tu che oggi hai 60 anni e che non li vorresti. E ci sono io, con il mio culto del non cercarti mai più. E ci sei tu che mandi un messaggio nel timore che possa dimenticarti. E ci sono io, che lo salvo e non rispondo. Io sono qui, nel nostro giardino di rose e ulivi, e fichi d'India, e gelsomini. A destra ho il mare e a sinistra si alza la montagna. Con te non l'ho saputo mai dov'ero, e se c'ero, e fino a quale punto. Forse sarà Matteo a mandarti i miei auguri, e tu non lo saprai. Ma io, ora, sono qui. E io invece non so chi tu sia, ma comunque, auguri. Grazie a Mariella che ha scritto questo racconto, grazie a Fabio Cantadore, Tiziano Bonini, a Viola Bottoni e a Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?